Dal 12 al 14 aprile al Dams Lab si terrà la rassegna Shift, la giovane danza europea. Io sono qui per parlarne con Elisa Pagani, direttrice artistica della compagnia DNA e curatrice della rassegna insieme alla professoressa Cervellati. Ciao Elisa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Siamo qui appunto per chiacchierare un po' riguardo Shift, la giovane danza europea. Innanzitutto, Elisa, di che cosa si tratta questo progetto? Ce lo puoi raccontare? Sì, Shift è un progetto alla sua terza edizione che vuole far incontrare, far dialogare alcune realtà di formazione professionale relative alla danza contemporanea che si occupano di creazione, produzione, quindi incontro del giovane danzatore con coreografi invece già affermati che permettono a loro di attraversare un'esperienza di processo creativo e di messa in scena. E quest'anno, per il primo anno dopo la terza edizione, siamo in collaborazione col Dams Lab all'interno del cartellone della soffitta, cosa che per noi è veramente un elemento di definizione, perché spesso e volentieri questi progetti, queste formazioni in Europa sono sempre legati a delle università, quindi sono legati a una qualifica solida e vera. Quindi insomma questo nuovo ponte ci consente di definire ancora di più l'identità del progetto. Saranno 3 giorni quindi dedicati totalmente alla danza, alla giovane danza europea, con tantissimi coreografi, protagonisti che vengono un po' da tutta l'Europa. Come sarà composta questa nuova edizione, quali saranno i punti focus? Ecco. La novità di quest'anno, con cui partiremo domani, è un incontro di parola, coreografa in viaggio, tutta al femminile, in cui Elena Cervellati introdurrà un incontro con Adriana Borriello, Emma Cianchi, Marigia Maggipinto e la sottoscritta. E sarà un momento appunto di narrazione rispetto alla figura della coreografa e dell'impegno rispetto alla formazione e alla trasmissione di elementi sulla composizione coreografica. E invece da giovedì a venerdì iniziamo l'operazione vera e propria di messa in scena, quindi saranno due serate di spettacolo che inizieranno alle ore 21 e il 13 aprile aprirà la serata il Teatr Tanka de Wirowania, perdono tutti per la pronuncia tremenda, direttamente da Varsavia, e la seconda parte della serata invece sarà dedicata proprio al DNA, la nostra compagnia, che metterà in scena insomma una primissima versione di Alle cose invisibili, un nuovo lavoro proprio fresco di quest'anno. La serata invece del 14 aprile sarà dedicata a 3 momenti di messa in scena di formazioni professionali, tra cui il nostro atelier di ricerca a cura coreografica di Marigia Maggipinto e la storica danzatrice di Tina Bausch, che è stato veramente un onore ospitare e ascoltare, e un secondo intervento del Trinity Laban, che è il Conservatorio di Musica e Danza di Londra, e l'ultimo un intervento della giovane formazione Human Bodies diretta da Emma Cianchi, che porterà una coreografia di Nico Piscopo. Una cosa molto particolare, molto bella anche, che mi piace sottolineare, è che il tutto sarà ad ingresso gratuito, tra l'altro, insomma, per chi ha voglia di partecipare. Assolutamente, è necessaria la prenotazione, in quanto i posti insomma non sono infiniti, però l'apertura vuole proprio andare ad accogliere chiunque sia curioso di vedere eventualmente i giovani talenti del futuro. Ecco, quindi possiamo dire anche che è una rassegna rivolta non solo agli espertissimi di danza, ma aperta veramente a tutti. No, vuole essere aperta a tutti, bisogna insomma secondo me interrompere questo circolo per cui la danza contemporanea si fa per gli appassionati di danza contemporanea, o anzi chi la fa. E bisogna iniziare insomma ad avere un'apertura davvero strategica e accogliente rispetto a tutta una fetta di pubblico che non conosce la danza contemporanea e che quindi non la frequenta, però è importantissimo insomma che il messaggio arrivi soprattutto allo spettatore inedito. Perfetto Elisa, ti ringrazio veramente, ricordo ancora una volta dal 12 al 14 aprile al Dams Lab Shift, la giovane danza europea, e grazie ancora Elisa per avercene parlato. A voi, grazie mille, buona giornata.